eravamo qui nel cortile e noi parlavamo un poco, sognavamo. E io sul palcoscenico davanti a un pubblico, mentre si alzava in piedi e poi si cresce, tu non sai che destino incontrerai, e poi ti accorgi piano che c'è qualcosa che non va. E quel tempo è stato già e non tornerà mai più, ma non si può stare qui di più e restiamo sempre più soli dopo la notte. Un filo di luce, ma non posso più tornare indietro, devo andare avanti. E di fronte a me io cammino ancora un po', vedo un viale stretto, ma è cambiato tutto ormai, solo strade e case che io non riconosco più, fermo in mezzo a gente che non ha un nome né un perché, e faccio un passo avanti, ma davanti a me c'è un lampione vecchio che è dimenticato qui e nessuno non lo sa. Quella sera quando io scrissi il mio nome lì, cancellato dall'oblio che distrugge tutto senza fine, che distrugge tutto senza fine.